از شریف ابراهیم از ریوبریا یا مشغلیم کاریم اداره مشغلیم Sono شریف ابراهیم e sono responsabile per questa cooperativa e faccio parte del comitato. یعنی سر احزاب یعنی اولو سر یعنی چش حزبینه یعنی آن چی کسکن چشتیم چی دکن گرسوکی La cooperativa è stata creata dopo la rivoluzione da un anno. Iniziamo a lavorare ogni giorno alle 8 di mattina e stacchiamo alle 16. Facciamo un'ora di pausa dalle 12 alle 13. Il venerdì è il nostro giorno di riposo settimanale. Tutte le donne che lavorano qui ricevono uno stipendio. In questo momento lavoriamo a preparare uniformi, ma normalmente produciamo quello di cui c'è bisogno al mercato del centro. Cuciamo ciò che serve. I vestiti che facciamo sono per chiunque. Yani chava yani domne yani verde ne yani na gundaneji u kobaniji hana u hamul yani hamukas arabji hana nimhamuji. Le donne che lavorano qui vengono da diversi posti, ci sono arabe, donne di Kobane e di altri paesi. Siamo sempre le stesse, dipende da quante macchine abbiamo a disposizione. A volte ci sono più persone a lavorare, a volte meno. Ci sono più cooperative tessili in ogni cantone. Solo per il cantone del Cizre c'è questa, poi ce n'è una a Kamishlo e una a Dirik. Abbiamo tutte le stesse condizioni di lavoro. Lo stipendio dipende da quante ore lavoriamo. Inoltre, alcune sono professionali e altre no. Le conoscenze possono essere differenti, ma le condizioni sono le stesse e guadagniamo in modo uguale a seconda delle ore che facciamo. La cooperativa appartiene alle Yekitia Star, il movimento delle donne, e in particolare alla Commissione per l'economia e gli affari delle donne. Le decisioni sono prese dal comitato delle donne che lavorano qui, ma le donne non devono appartenere alla Yekitia Star per lavorare qui. Per quanto riguarda gli utili della cooperativa, con una parte paghiamo i nostri stipendi e compriamo i materiali e tutto ciò che serve alla cooperativa. Il resto è usato per altri progetti, per esempio per costruire altre cooperative. Non è molto tempo che abbiamo messo in piedi il sistema delle cooperative, per cui non siamo ancora in grado di dare lavoro ad ogni donna, ma questo è il nostro obiettivo. Che ogni donna possa avere un lavoro salariato. Tutti i lavori all'interno della cooperativa sono fatti da donne. Io sono la responsabile della cooperativa, ma qui ogni donna è responsabile del lavoro. Tutto è condiviso, anche le pulizie si fanno a turno tra tutte e prepariamo i pasti insieme. Per la parte contabile c'è una donna che viene apposta e che fa parte del comitato. Solo il lavoro di aggiustare le macchine da cucire è fatto da un uomo, ma le donne stanno imparando come fare, in modo da diventare autonome presto. Prima della rivoluzione le donne lavoravano in fabbriche come queste nelle grandi città, come Aleppo o Damasco, ma non nelle piccole città, anche se in generale le donne lavorano sempre. Questa cooperativa è qualcosa di nuovo. Le donne prima lavoravano, ma non in modo autonomo e auto-organizzato. Lavoravano per qualcuno, adesso invece lavorano tutte insieme, non più in una struttura padrone, lavoratrice dipendente. Questo è nuovo. Che ضمان شيء نبونه نا نا بس نا بس ضمن الشغل بك او بحسا برا درب اي شغل بك Non abbiamo la pensione, non abbiamo nulla del genere. Se non lavoriamo, non guadagniamo. Dipende da quanto a lungo le persone vogliono lavorare. Non abbiamo ancora sistematizzato il diritto del lavoro. Non tutto è stato ancora fatto. Ancora non abbiamo preparato un piano sulle condizioni di lavoro, a che età iniziare, quando smettere, quanto è lo stipendio minimo e così via. Non ne abbiamo ancora discusso. Quindi le cooperative non hanno un contratto fisso, ma tutte le donne che vogliono lavorare dicono quante ore vogliono fare. Quindi le condizioni sono decise dalle donne. Decidono insieme in modo democratico le modalità di organizzazione del lavoro per creare una realtà cooperativa come questa. Qui si decidono insieme le condizioni di lavoro. Le donne decidono quello che vogliono o non vogliono. In base a ciò che hanno sperimentato in passato, sanno come vogliono essere trattate, sanno di non voler lavorare 9-10 ore per guadagnare una quantità sufficiente di soldi, vogliono lavorare quanto basta, in modo che ogni donna possa guadagnare quel che occorre per sostenere la famiglia e avere ciò di cui ha bisogno. Se una volta pagati gli stipendi avanzano dei soldi, vengono usati per altre cooperative. Comunque creeremo i contratti e tutto il diritto del lavoro per stabilire buone condizioni e lo faremo in modo democratico, in modo che ogni lavoratore e lavoratrice possa decidere e auto-organizzarsi. Per cui forse non sarà uguale in ogni parte del Rojava, ci sarà una cornice comune e poi in ogni posto di lavoro si deciderà autonomamente. هنی پروژه بیچوک، اب بیچوک که یعنی بلکه مزمینه تجربه هنی جناه اب پروژه پیش کنه اما جبو قابلین آوری دی جوار که ده هبن بکار بین پروژه پیش بخمن اب اکادمی آوری هن نا اب اکادمی دوره دوره لسر آوری چیه آوری ها جواکی چیه مدرنیت قبطلیزم آوری چاوا دنرخینی Passare da una condizione in cui c'è chi ti dice cosa fare a una in cui si decide insieme tutto è un grande cambiamento, implica l'assunzione di molte responsabilità. Abbiamo messo in piedi un processo per imparare a lavorare in modo cooperativo, imparare a condividere il lavoro, a discutere insieme. Per questo ci sono le accademie di economia per donne e uomini, in cui studiamo le strutture economiche capitaliste. Cos'è il capitalismo? Come si è sviluppato nei diversi paesi? Come può evolvere in futuro? Studiamo anche altri sistemi economici. Chi termina gli studi va a lavorare nelle cooperative, ma non è obbligatorio andare all'accademia per lavorare in una cooperativa. Per cui a volte le lavoratrici non sanno che migliaia di donne e uomini sono morti per avere il diritto a lavorare anche solo un'ora di meno. Sanno che queste condizioni di lavoro sono buone per loro, ma non sanno che sono conquiste ottenute grazie alle lotte e alle rivoluzioni. Non è un dovere studiare nelle accademie, perché si impara anche molto nella vita quotidiana sul posto di lavoro, ma partecipare all'accademia dà maggiori strumenti per comprendere e scegliere le proprie condizioni di lavoro nel concreto. تبدأ درد دسا تو اگر کارک بیکی کوپراتیف خواب بیکی حاوجنا که در دسا مثلا چه بتن ندر بب تو بخواب چی بیکی تو بخواب آب بیکی یا در بدر هند میه Stiamo creando delle nuove strutture e siamo ancora nel processo creativo, per questo non abbiamo molte esperienze. Stiamo lavorando sull'acquisizione di conoscenze. Prima la gente era completamente dipendente dal governo del sistema siriano. Vi faccio l'esempio del pane. Dopo la rivoluzione il popolo si è trovato con molta terra, ma le persone non erano in grado di farsi il pane da sole, perché il governo precedente aveva creato un sistema per cui era sempre possibile comprare pane a buon prezzo. Nessuno aveva mai imparato a farlo e neanche come coltivare il grano. Noi ora stiamo lavorando per cambiare tutto ciò. Per questo non possiamo dire: ecco, questo è il lavoro che devi fare, e le persone lo fanno. No, ora ci chiedono: perché devo farlo? Quindi discutiamo, impariamo e insegniamo. Parliamo insieme delle strutture che vogliamo mettere in piedi, di cosa ci serve e come ottenerlo. Prima della rivoluzione le persone pensavano a lavorare per guadagnare i soldi di cui avevano bisogno e basta. Adesso il processo è molto più complicato. Impariamo, proviamo a costruire una vita differente, proviamo ad essere consapevoli dell'intero processo. Piantiamo il grano e facciamo crescere la pianta, facciamo la farina e poi il pane e poi lo vendiamo. Vogliamo conoscere tutto ed essere preparati e consapevoli. Stiamo ancora nel processo di creazione delle strutture e tutte le persone che vogliono partecipare possono prendervi parte. Yani da mesela en benim nu despedi kendiktir. Tabii ki vasit çevirinci. Ama acıber kuan bu fazın anlayışı kooperatif zedetir. Lübet beş bir kebe. O kabat emene hem terverde o hem de kabat edeni geçti serbi demeşandeni. O an bu fazın fikir anlayış. Bidin rürsene kuan bu sağ karbikin. Yoksa tü işte gidi ver millet veri bir ki nabiyen. Yani. Vejite de vermen bir ki. Ama gerektir. Ve Kurdistan'ı Kurdistan bahçe gülen nerede dilen İrmaye Hindistan bari gülen serimler İrmaye Hindistan bari gülen serimler Kurdistan'ı Kurdistan bahçe gülen nerede dilen Kurdistan'ı Kurdistan bahçe gülen nerede dilen İrmaye Hindistan bari gülen serimler İrmaye Hindistan bari gülen serimler Kurdistan'ı Kurdistan bahçe gülen derdi dilen İrmaye Hindistan bari gülen bir seri dilen İrmaye Hindistan bari gülen bir seri dilen خوش دیدله و نردوشه کردستان آبر خوشه خوش دیدله و نردوشه ناموسری وینی نه ایدر زن بفروشه ناموسری وینی نه ایدر زن بفروشه کردستانی کردستان بخچه گلان نردی